Un'antina di mobile. Questo lato è uno strano. Questo è uguale. Che no, perché Rubi, avete detto che sta occupando? Se ne dici, io parlo ora. Io vale la pena di vedere la pena. Qui ci sono delle cose molto... Sì, sì. Bella. Piace, no? Bello, no? Poi diventiamo.